Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuto al professor Francesco Bandello, primario dell'unità di oculistica dell'IRCCS, ospedale San Raffaele di Milano e ordinario di oftalmologia all'Università Vita Salute. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professor Bandello, lei oggi deve aiutarci a vedere chiaro, una richiesta a cui a lei come oculista immagino sia abituato, ma quello che le chiedo oggi è di imprestarci il suo occhio clinico per distinguere e capire l'origine di alcuni sintomi che in questo periodo possono insospettirci e darci un po' di preoccupazione. Anche perché sappiamo che gli occhi sono una porta d'ingresso del virus e tra i sintomi del Covid abbiamo imparato che c'è anche la congiuntivite. Ma di questi tempi, vuoi per la luce che è cambiata, vuoi per le allergie, questo è il loro momento d'oro, ma anche per le tante ore che noi passiamo davanti al computer, è possibile trovarsi a fare i conti con occhi che lacrimano, si arrossano, prudono. Professor Bandello, che cosa dobbiamo prestare attenzione? Ci aiuti lei? Allora, quando c'è una congiuntivite, cioè un'infiammazione della congiuntiva, che è quella membrana che riveste l'occhio, sia a livello della faccia posteriore delle palpebre che è la parte non corrispondente all'iride, alla cornea, quando c'è un'infiammazione della congiuntiva, i sintomi caratteristici sono un senso di corpo estraneo, come avere un granello di sabbia negli occhi, un fastidio eventualmente alla luce, un senso di irritazione. Manca di solito il dolore vero e proprio, e noi oculisti all'assenza di dolore vero e proprio attribuiamo un'enorme importanza, perché quando c'è dolore vero e proprio non è più una congiuntivite ma è qualcosa di diverso e può essere qualcosa di più grave di solito, come un iridociclite, un glaucoma acuto, delle cose che diciamo si caratterizzano per un'importanza molto maggiore. I segni che si associano con questi sintomi sono un occhio che diventa rosso, in genere una lacrimazione, un eccesso di lacrime che cominciano a scendere lungo le palpebre e diciamo un arrossamento diffuso dell'occhio che non è mai circoscritto come invece in altre malattie più gravi. C'è poi un altro sintomo che è estremamente importante da riconoscere, che è il prurito. Quando il prurito domina e quando si ha questo bisogno irrefrenabile di sfregare gli occhi, di continuare a grattarli, bene, quella è molto verosimilmente una forma allergica. Quando il prurito domina bisogna indirizzarsi verso l'ipotesi di una causa allergica dell'infiammazione oculare. Per questo tipo di congiuntiviti, che spesso hanno un andamento stagionale, quindi tendono a ripetersi più o meno sempre nello stesso periodo dell'anno, è opportuno utilizzare dei prodotti che sono specifici per le forme allergiche, che sono capaci di evitare la comparsa della sintomatologia importante, se instillati un po' prima che cominci il periodo dell'allergia, mentre per le altre forme di congiuntivite, a seconda dei casi, vanno instillati dei colliri antibiotici o in alcuni casi delle associazioni di cortisonico antibiotico, ma comunque la scelta del prodotto da instillare la deve fare l'oculista sulla base dell'osservazione obiettiva, vedere come stanno le cose. Il problema si può manifestare in entrambi gli occhi o solamente in uno? Cambia se è monolaterale o bilaterale? Di solito la congiuntivite è bilaterale, può avere una prevalenza in un occhio rispetto all'altro, può essere un po' più intensa in un occhio rispetto all'altro, ma di solito il processo è bilaterale. Oggi, come diceva giustamente lei, c'è una grande attenzione alla forma virale, perché si è pubblicato in tutte le sedi possibili e immaginabili l'ipotesi che anche il Covid-19 produca delle manifestazioni oculari. La congiuntivite da Covid-19 non è molto diversa da una congiuntivite qualsiasi. Noi l'abbiamo ricercata qui facendo uno studio proprio in ospedale da noi, gli specializzandi che si sono offerti spontaneamente, i miei specializzandi di assistere i pazienti Covid-19, hanno fatto delle colture, sono andati a prendere materiale dalla congiuntiva dei pazienti che erano ricoverati per Covid-19 e siamo andati a vedere quante di queste colture rilevate a livello congiuntivale davano risultato positivo per l'infezione virale. Bene, neanche una. Nonostante che tanti pazienti avessero un quadro simil congiuntivitico, però quello che poi si nota è che questo accade soprattutto quando i pazienti esposti con la mascherina ha una grande quantità di ossigeno a cui bisogna ricorrere purtroppo quando inizia l'insufficienza respiratoria. Bene, questo ossigeno che dalla mascherina poi va a finire anche sugli occhi produce una irritazione congiuntivale che è molto simile alla congiuntivite virale. Professor Bandello, parliamo anche di ripresa, stiamo un po' tornando a programmare la nostra quotidianità ed è importante tornare ad occuparci della salute, tutti devono farlo, ma soprattutto chi durante l'emergenza Covid non ha potuto effettuare le visite, i controlli, proseguire le terapie o sottoporsi ad interventi. Come si sta organizzando l'oftalmologia per gestire la ripartenza della pratica clinica e chirurgica? L'oftalmologia, come tutte le branche della medicina, hanno visto una sostanziale, drammatica riduzione del numero dei pazienti che venivano per fare le abituali cure, le abituali terapie. Questo perché, da un certo punto di vista, per fortuna, dall'altro peccato, il messaggio che l'ospedale fosse una sede in cui si rischiava il contagio è un messaggio che è arrivato a tutti, per cui il paziente non aveva paura, certo. Aveva una paura folle di venire in ospedale. Questo è successo per l'oculistica, ma è successo anche per la cardiologia, per la neurologia. Anche noi che abbiamo delle terapie per le malattie della retina che sono basate sulla iniezione intraoculare di farmaci, e la rispettare i tempi di queste iniezioni è essenziale per ottenere dei buoni risultati terapeutici. Abbiamo visto i nostri pazienti mancare agli appuntamenti e adesso abbiamo tanti pazienti con dei danni maggiori di quelli che avrebbero potuto avere, proprio perché le malattie nel frattempo sono andate avanti producendo danni maggiori. Oggi la terapia la si rifà normalmente, ci siamo tutti adoperati qui in ospedale da me, ma credo in tutti gli ospedali d'Italia e in tutte le realtà d'Italia, per creare dei percorsi che siano liberi dal rischio di contagio per i nostri pazienti. Abbiamo cercato di creare i presupposti perché non ci sia quel tipo di assembramento che, ahimè, in passato c'era per i nostri pazienti, e si stanno creando i presupposti perché i pazienti possano tornare in serenità a fare quanto serve per garantire la preservazione del loro patrimonio visivo. Quindi, professor Bandello, agli amici che ci stanno ascoltando, l'invito è: tornate a controllare la vista, tornate ad effettuare le terapie, controlli, quello che era in programma. Anche gli interventi, professore? Anche assolutamente gli interventi. Gli interventi purtroppo non possono essere fatti nello stesso numero con cui venivano fatti prima, perché anche qua l'agenda chirurgica deve cambiare, devi lasciare il tempo perché ci sia una sanificazione diversa rispetto a prima, perché si evitino gli assembramenti nelle sale d'attesa. Sicuramente i numeri non possono essere quelli precedenti, ma si sta cercando di ripristinare, rispettando le nuove regole, ripristinare dei flussi che siano il più possibile adeguati a soddisfare la richiesta. Professor Bandello, che cosa abbiamo imparato da questa emergenza Covid che può aiutarci a ricostruire una sanità più efficiente? Allora, noi sicuramente possiamo trarre giovamento da questa esperienza per immaginare soluzioni differenti. La telemedicina e l'intelligenza artificiale, che sono due cose di cui si parla tantissimo, no? da tempo, ma che abbiamo sempre un po' lasciato ai margini, soprattutto la telemedicina. Bravissima, non abbiamo mai poi un po' per varie ragioni, ma anche un po' per una pigrizia culturale, forse. Sì, non abbiamo mai sposato interamente, un po' perché è più facile continuare a fare quello, certo, che fai piuttosto che imbarcarti in imprese nuove, però sicuramente la telemedicina in una situazione quale è questa può aiutare moltissimo. Un'altra cosa che nel nostro campo può avere grande importanza è la disponibilità di sistemi di valutazione del paziente a distanza, sì, che in parte sono già disponibili e che consentirebbero di arrivare a una valutazione del paziente adeguata per stabilire se il paziente debba o meno fare dei trattamenti particolari. Faccio riferimento in particolare alla possibilità di osservare il fondo oculare con dei dispositivi che, associati con un telefonino, con uno smartphone che tutti abbiamo a disposizione, sì, possono consentire di riprendere, di autoriprendere il fondo oculare e possono consentire di trasmettere poi queste immagini al centro esperto di lettura. Questo oggi è in nuce, cioè non è ancora diventato routine, ma può diventarlo, e credo che esperienze come quelle che abbiamo vissuto siano utilissime per dare una grande accelerata a soluzioni di questo genere, perché è chiaro che ci siamo sentiti tutti obbligati a ricorrere a delle cose che consentissero a distanza di fare quello che facevamo prima. Certo, pur lontani, di stare vicini. Certo, mi auguro che questo accada presto, perché sarebbe la soluzione di tanti problemi. Certamente. Professor Bandello, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata e un buon lavoro. Grazie, grazie a tutti voi. Bene, per oggi è tutto, io vi do come sempre appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata da Nicoletta.